costolea del toro nell'arena. La gente urla dai pulpiti, colpiscilo alla schiena. Quando la massa diventa una polveriera, l'ira si aggiunge alla rabbia ed esplode la terra intera. Matador non conosce paura, incarna la tradizione fiera. Gesti dettati da orologi svizzeri, minuziosa mente prepara. In mano una spada, simbolo della sua carriera. Nel cuore sangue, un crocifisso, tutta la sua storia. In scena non ci sono attori, due gemelli d'oro, una giacca piena di bottoni. Una donna si toglie il velo, una voglia di confondersi con il toro, distinguersi, una voglia di vincere, la paura di poter perdere. L'ultimo matador innalza il suo cappello, impreca il cielo di dargli il coraggio di affrontarlo. La polvere lanciata al cielo per vedere dove tira il vento. La gente tutta in piedi applaude, il torero sta morendo. Questa volta non sarà ucciso, questa volta ci sarà meno rumore. La corrida altro non è che una tortura legalizzata. Hemingway ne fece una rosa rossa, una poesia carbonizzata. Matador non conosce paura, incarna la tradizione fiera. Gesti dettati da orologi svizzeri, minuziosa mente prepara. In mano una spada, simbolo della sua carriera. Nel cuore sangue un crocifisso, tutta la sua storia. In scena non ci sono attori, due gemelli d'oro, una giacca piena di bottoni. Una donna si toglie il velo, una voglia di confondersi con il toro, distinguersi, una voglia di vincere.